Dunque, allora, sì, io sono a Radio Popolare ormai da circa 25 anni e da qualche anno sono caporedattrice, che vuol dire insomma una funzione fondamentalmente di coordinamento del lavoro dei colleghi e delle colleghe. Cosa mi ha spinto a farla giornalista? Ma me lo sono chiesto varie volte. A un certo punto della mia vita, dopo l'università, sono stata molto determinata su questa strada e ci tenevo molto. E in fin dei conti credo che tutto risalga al fatto che io avevo, ho tuttora, uno zio molto caro, una persona a cui sono molto legata, che è stato tutto, adesso è in pensione perché ha 80 anni, che era giornalista, è stato anche un giornalista, insomma, anche direttore di qualche testata, per cui io avevo grande ammirazione. E, siccome a me fin da ragazzina mi piaceva la politica, io mi godevo molto quando, non so, era lui con sua moglie e suo figlio, spesso erano quelli con cui, non so, la domenica andavamo in pizzeria, sai, quei pezzi di famiglia con cui ti vedi molto regolarmente, molto frequentemente, e lui aveva sempre dei racconti strepitosi, eccezionali, sembrava proprio, avevo proprio l'impressione di uno che era dentro le cose e dentro le cose che a me interessavano, come appunto, per esempio, la politica, uno molto informato che così, insomma, aveva sempre delle opinioni interessanti, di retroscena, e secondo me questa cosa mi affascinava molto e avevo appunto, oltre un legame affettivo molto forte, anche molta ammirazione per questo suo così modo di essere sempre, come posso dire, appunto, l'impressione che fosse sempre molto dentro le cose. E, poi ho studiato all'università lettere, indirizzo storico, io sono sempre stata molto appassionata di storia e di storia contemporanea in particolare, quindi chiaramente è una passione molto contigua, secondo me, alla professione del giornalismo. E, dopo la laurea c'era, casualmente quell'anno, perché c'era ogni 2 anni all'epoca e credo anche adesso, il concorso per entrare alla scuola di giornalismo, la scuola pubblica, che adesso fa parte dell'università statale. All'epoca era una scuola gestita dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia insieme alla Regione. E quindi ho passato questo concorso, sono entrata, e questa era una scuola con una frequenza obbligatoria per 2 anni, e quindi insomma era proprio come andare a lavorare, in parole povere. E prevedeva 2 stage, uno la prima estate e uno la seconda estate. E siccome a quella scuola insegnavano alcuni di Radio Popolare, tra cui un grande giornalista che io considero il principale dei miei maestri, Piero Scaramucci, che ha fondato Radio Popolare nel 1976, oltre a lui i 2 capi redattori dell'epoca, che erano Danilo De Biasio e Massimo Rebotti. Loro tutti e 3 insegnavano alla scuola di giornalismo, oltre a lavorare a Radio Popolare, perché insegnavano magari, non so, 2 mattine a settimana, 2 pomeriggi a settimana, a rotazione. E devo dire che tutti e 3, Scaramucci in particolare, ma anche i 2, diciamo, giovani, mi piace, mi hanno fatto subito una bellissima impressione, perché ci insegnavano un modo di fare giornalismo, se vogliamo, un po' fuori da certi schemi mainstream, ma molto molto coinvolgente, molto appassionante, no? E allora, quando si è trattato di scegliere o fare domande, insomma, per fare lo stage, ho abbandonato l'idea che avevo inizialmente di andare in qualche giornalone, perché avevo un po' così il vezzo di vedere la firma stampata sul giornale prima o poi, e ho deciso, va bene, proviamo Radio Popolare, perché insomma ero presa bene dall'idea, no? E quindi, insomma, poi diciamo che dopo il primo stage ci siamo trovati subito reciprocamente bene, sia io, soprattutto io da loro, ma anche loro avevano apprezzato così, insomma, fondamentalmente la mia capacità di imparare, no? Perché io ero una studentessa e basta, non ero sicuramente una giornalista. E quindi poi dopo lì sono rimasta per tutto il secondo anno della scuola di giornalismo a collaborare con loro. C'era all'epoca la possibilità di lavorare al giornale Radio della Sera, che era alle 10 di sera e poi a mezzanotte e mezza, 2 edizioni, su base volontaria. Una cosa che per fortuna non esiste più. Chi collabora con noi e fa i giornali radio la sera viene regolarmente pagato. Mentre allora, vabbè, insomma, si usava così, erano anche un po' altri tempi, meno attenzione, no, a tutto il tema del lavoro non pagato, probabilmente. Morale, ho iniziato a a fare i giornali radio, poi mi è stata affidata una trasmissione al sabato, non proprio giornalistica, però con una trasmissione sugli appuntamenti del weekend, che comunque era molto divertente, e mi sono fatta un po' le ossa, diciamo così, in una trasmissioncina dove potevo anche non essere particolarmente brava perché non era una cosa molto impegnativa, e basta. Il secondo stage ovviamente l'ho fatto lì perché ho capito che c'era margine per andarci poi a lavorare, e quindi così è stato, insomma. Quindi così è andata. Io ho lavorato praticamente solo per loro in tutti questi anni. Bello, bellissimo. E appunto prima hai anche un pochino accennato appunto il fatto che alcuni professori alla scuola di giornalismo, negli anni di scuola di giornalismo, facevano un giornalismo un po' poco mainstream, da quello che hai detto. E siccome questo appunto è un po' anche uno dei temi che tocchiamo ogni volta in questa trasmissione, cioè il mondo del giornalismo e come è cambiato il modo di fare giornalismo negli anni, e quindi di conseguenza anche cosa intendi, sono curiosa anche con il modo di fare giornalismo mainstream, cioè come vedi che il modo, cioè qual è la tua valutazione di come è cambiato il modo di fare giornalismo negli anni? E come vedi ad esempio anche il mondo del giornalismo oggi rispetto a quando hai fatto la tua gavetta? Beh, ci sono state grandi trasformazioni. Sicuramente la sfida oggi per un giornalista, è quella di saper leggere la realtà che cambia molto velocemente, anche la realtà del nostro mondo del giornalismo, e per forza di cose adeguarcisi, senza però perdere certi punti fermi. Per esempio, io considero punti fermi la precisione, l'onestà intellettuale, e chiaramente in un mondo che si sta molto velocizzando, prendiamo per esempio i social, per molte persone giovani oggi sono un canale di informazione, no? Come, siccome adesso oggi nessuno legge più i giornali cartacei, no? È già tanto se qualcuno si collega, che ne so, con un sito internet di un giornale, ma forse neanche quello. Spesso i ragazzi e le ragazze di adesso ricevono informazioni sull'attualità tramite i social, però naturalmente i social semplificano molto il messaggio, e poi finisce sempre che nel dibattito sui social le posizioni si polarizzano, però chiaramente. Insomma, non è tutto o bianco o nero, no? E quindi bisogna attraversare questi cambiamenti, secondo me, cercando di essere veloci o diventare veloci, perché questo adesso richiede anche un certo tipo di pubblico, e secondo me soprattutto i ragazzi più giovani, ma essere anche approfonditi, essere semplici nel parlare, nello scrivere, ma precisi. Usare bene le parole quando devono essere poche. Per esempio, vabbè, adesso Twitter mi sembra una roba un po' da vecchi che sta anche andando a morire, però certi social, no, comunque richiedono un post, richiede poche parole, non è certamente come un articolo. E allora quando ne usi poche devi essere molto attento a usare quelle giuste. I social stanno molto cambiando il modo di fare il giornalismo. Addirittura, secondo me, il giornalismo online, il trasferimento online dei giornali classici è già qualcosa di vecchio oggi. Se io penso a Corriere.it o Repubblica.it, penso a qualcosa che vede la gente della mia età, o al massimo forse la gente di 30 anni, ma non quelli che saranno, come dire, gli adulti di domani. C'è una cosa che nel mondo della radio, ma in generale del giornalismo, è in grande ascesa, e cioè tutto il discorso dei podcast, che secondo me invece sono qualcosa di molto apprezzato un po', diciamo, da tutte le età. Chi sa maneggiare gli smartphone, ovviamente non stiamo parlando delle persone magari over qualcosa. E anche lì, insomma, sicuramente c'è un futuro del giornalismo un po' diverso dal dal giornalismo classico, però secondo me è molto promettente. Il mondo dei podcast a me interessa molto, è parente stretto della radio, io me ne occupo poco, però insomma sicuramente è qualcosa che conosco. E poi c'è anche un altro tema nel come sta cambiando il giornalismo, ed è il tema che il mondo del giornalismo e il mondo dell'editoria in generale è entrato in crisi una ventina d'anni fa e non si è del tutto ripreso. E questo ha fatto sì che ci siano nuove forme di sfruttamento, soprattutto dei più giovani, di chi aspira a entrare in questo mondo. Lavoro pagato male che, unito alla necessità di essere veloci, fa sì che spesso si perda di profondità. Perché se uno è precario, sottopagato e, come dire, poco considerato nel suo diritto a essere formato e nel suo diritto a essere pagato mentre viene formato, allo stesso tempo gli viene richiesto di lavorare a rotta di collo per essere, appunto, star dietro alla velocità di quella che è l'informazione, nella realtà di oggi si perde sicuramente di profondità. Questo è un rischio che io vedo, sicuramente nei grandi giornali, nell'informazione mainstream, dove spesso si bada, soprattutto sull'online, a pubblicare la notizia per primi senza essere particolarmente precisi o particolarmente seri nello spiegare le notizie. Ecco, questo fondamentalmente vedo un po' come rischio per il giornalismo del futuro. Ma Lorenzo, volevo farti una domanda su questo. Ma secondo te è un problema legato a come sono strutturate le redazioni, che quindi non danno spazio, possibilità a giovani giornalisti, giovani giornaliste di essere formate e approfondire la notizia? O è proprio una questione legata alla preparazione dei giornalisti e delle giornaliste stesse? Cioè, mi viene a fare un po' un discorso come quello per i parlamentari, tra virgolette. Cioè, è evidente che la classe politica italiana non è preparata, non esce dalle migliori università, non ha consegna tesi di laurea rivoluzionarie, non ha dottorati, sono tendenzialmente ignoranti, possiamo magari risultare un pochino populisti, però è una cosa che secondo me è anche abbastanza evidente in base a come si comportano quando scrivono le leggi, per esempio. E la stessa cosa succede tra i giornalisti e giornaliste, cioè c'è poca competenza perché i percorsi formativi sono stati svalorizzati, non c'è finanziamento a quella parte, quelle, diciamo, quelle scuole di giornalismo. O è soltanto legato al fatto, che la redazione per vendere deve viaggiare su quel sistema lì e il sistema non permette di coltivare un buon processo di creazione delle informazioni? È difficile dirlo, è un po' un mix fra queste due cose. Intanto devo dire che te lo dico adesso ormai posso definirmi senior di Radio Popolare, quando arrivano stagisti o arrivano ragazzi giovani da noi, comunque ci vuole molto impegno per curare la crescita professionale di un ragazzo o di una ragazza. È qualcosa che bisogna aver voglia di fare, è qualcosa in cui bisogna impiegare del tempo portandolo via al tuo lavoro, nel senso che ti devi dividere, no, fra il tuo lavoro e il lavoro di formazione del ragazzo o della ragazza che cerca di, come dire, vuole entrare, no, in quel mondo e ha l'occasione di farlo nel tuo posto di lavoro, nel mio caso appunto a Radio Popolare. Ci vuole anche una certa passione che non tutti hanno. Quindi da questo punto di vista, più che un fatto di preparazione, perché poi ovviamente come in tutti i settori c'è la gente preparata e la gente non preparata, c'è la gente ignorante, c'è la gente colta, c'è la gente che se ne frega e la gente invece che ci tiene, no? Quindi anche nel giornalismo, sì, possiamo anche dire che un po' la categoria è un po' scaduta negli anni, però poi tutto sommato chi sono io per dirlo, insomma, io anch'io faccio parte, in fondo ormai ho 50 anni, quindi voglio dire, non è, insomma, semmai sarei in quelli che stanno scadetto, non so come dire. Per cui non voglio dire questo, voglio dire che semmai manca un po' l'attenzione a quanto è importante, no, far crescere professionalmente un ragazzo, una ragazza che ha diritto a essere formato come si deve, che non deve essere uno che viene schiavizzato per fare, no? Perché poi lo sappiamo, in tutti i mondi del lavoro, in tutto il mondo del lavoro, lo stage finisce per essere lavoro non pagato che spesso sostituisce, no? Il lavoro di qualcuno. Esatto, esatto. E su questo il giornalismo non fa eccezione. Quindi uno poi deve avere molto chiaro che per quanto ci sia anche questo risvolto, che purtroppo è molto facile che ci sia, il ragazzo o la ragazza ha diritto a essere formato perché è lì per quello. Quindi bisogna prendersi un po' questa cosa in carico. Poi c'è, ripeto, un tema economico. Per esempio, io sono passata per la scuola di giornalismo, che mi ha riconosciuto, funziona così, dopo 2 anni di scuola, proprio perché tu fai 2 anni di frequenza obbligatoria, 8 ore al giorno, non è poco, ti riconosce il praticantato e tu puoi accedere all'esame di Stato e diventi giornalista. Se non fai la scuola di giornalismo, tu questo praticantato te lo devi far riconoscere in una testata, un giornale, una radio, una televisione, un sito internet, che ti deve fare un contratto, il contratto da praticante. Questo contratto da praticante dà molte garanzie, è un contratto molto buono, insomma, per il praticante, ma proprio per questo è molto oneroso per il datore di lavoro. E quindi i giornali, soprattutto dopo la crisi che è partita nel 2008, voi vi ricordate la crisi dei mutui, come si chiamava, la Lehman Brothers che fallisce, forse siete un po' giovani, ma insomma nel 2008 c'è stata una crisi economica finanziaria mondiale, di livello mondiale. Lorenza, è stata noi al momento l'unica giovane Alice, perché anch'io ormai nel 2008 avevo 18 anni, facevo già i cortei e tutto il resto. Ti potresti ricordare. E allora cosa succede? Che quando le aziende vanno in crisi, una delle prime cose su cui tagliano è la pubblicità. E questo si ripercuote sul mondo dell'editoria, perché i giornali, le radio, le televisioni hanno una fetta molto importante dei loro introiti dalla pubblicità. E quando la pubblicità va in ginocchio, anche i giornali vanno in ginocchio. Questa è la ragione della crisi dell'editoria, soprattutto nel mondo del giornalismo, dove ancora non ci si è ripresi, non si è tornati al livello di pubblicità pre-crisi del 2008. Il contratto praticanti, che è previsto dal contratto collettivo dei giornalisti, è un contratto appunto molto oneroso per le testate. E quindi è difficile che te lo facciano, piuttosto ti prendono come appunto stagista non pagato. È un percorso piuttosto difficile. Dopodiché, quando tu hai fatto il tuo praticantato, vai a fare l'esame da giornalista e diventi giornalista. Con questo non è detto ovviamente che trovi poi lavoro, però insomma già sei sulla buona strada, strada, ecco. Questo, i problemi sono un po' di tipo economico, e poi il fatto che a prescindere dalla preparazione, chi sta in un giornale, io dico giornale però ci capiamo, no? Vuol dire in una testata giornalistica di qualsiasi tipo, abbia anche la capacità, la passione, la pazienza per far crescere le persone che in qualche modo gli vengono affidate all'inizio del loro percorso. Va bene. Alice, avevi un'altra domanda da fare al volo o vado io con una delle mie domande? Qua c'è un po' di compartimentazione. Come vuoi, puoi andare tu. Ti ringrazio, Alice. Abbiamo capito ormai che è il programma di Alice, giustamente. Non doveva essere diversamente. Io ho detto, volevo fare una domanda secchissima a Lorenza. Vediamo se riesce a risponderci in maniera altrettanto secca. Perché ha vinto Fontana in Lombardia? Stiamo cambiando un po' argomento. Vinto Fontana in Lombardia. Intanto, se ci pensate bene, se consideriamo il dato dell'affluenza, che mi pare sia stata del 47%, più o meno, sì. E dentro quel 47% di lombardi e lombarde che hanno votato, di quel 47% Fontana ha preso il 54-55, adesso non mi ricordo, ho rimosso le percentuali precise. Quindi se ci pensiamo bene, Fontana ha vinto con i voti di circa un quarto dei lombardi. Io non sono brava in matematica, ma stiamo parlando di numeri veramente bassi. E, io credo che chi vive bene o discretamente, e secondo me è la maggioranza in Lombardia, non vuole mettere in discussione il sistema che governa la regione, anche se già c'è da pagare una visita, perché le liste d'attesa nella sanità sono lunghissime, anche se i treni locali fanno schifo. Non c'è l'intenzione di mettere in discussione un sistema che ormai è lo stesso da 30 anni, perché la destra governa da quasi 30 anni qui in Lombardia. E ripeto, nel pensare al proprio orticello, vivo bene, vivo discretamente, vivo insomma decentemente, e la Lombardia insomma è tra le regioni con un reddito medio più alto d'Italia, e poi forse l'alternativa forse non è credibile, c'è anche questo, anche se io non credo che se avesse vinto, per dire, Maiorino, il Partito Democratico avrebbe ribaltato il sistema, intendiamoci. La Repubblica Socialista no. di Lombardia sicuramente. Infatti, insomma, sicuramente sarebbero stati aggiustamenti significativi, importanti rispetto alle politiche, anche cambiamenti, ma non penso che ci sia la paura che l'opposizione, l'attuale opposizione, il centro-sinistra, ribalti il sistema. Però questo sistema qua, molto rodato, molto oliato, che poi è anche un sistema di potere che regala chi deve regalare, che è molto contiguo per esempio alla Confindustria, ecco, questo sistema non c'è la voglia, l'interesse a metterlo in discussione, secondo me è questo, è come se questo blocco di potere tutto sommato, non so se dire vada a genio, una parola grossa, ma va bene così alla maggioranza. Beh, va bene così, tanto che nessuno e nessuna è andata a votare. Sì, ma anche questo è un distacco, perché se ci fosse la voglia di cambiare sarebbero andati a votare, ma evidentemente non interessa. Non interessa cambiare. Quello che è impressionante per me, mettendo un attimo la mia opinione, anche a livello mediatico, come abbia fatto a salvarsi la faccia anche dopo il Covid, cioè dopo il diciamo periodo più difficile, della pandemia, cioè io non riesco a capacitarmi di come così facilmente ci si dimentichi di tanti errori che sono stati fatti. Quindi. Ma guarda, io su questo, allora, da un lato penso che ci sia stata una voglia di rimuovere l'esperienza del Covid il più rapidamente possibile. Questo, se ci pensiamo bene, è successo un po' a tutti, cioè quanti di noi, comunque tutti volevamo lasciarci questa schifezza di esperienza, di shock alle spalle. E quindi il fatto di rimuovere e di, come dire, lasciarsi consegnare al passato l'esperienza del Covid, probabilmente ha consegnato anche gli errori al passato. E poi io sono convinta di una cosa, che molte persone pensano che lo tsunami che è arrivato in Lombardia fin dall'inizio avrebbe travolto chiunque fosse al governo della regione. Io di questo sono abbastanza convinta, nel senso che la gente, come posso dire, normale, che non sta tanto a informarsi, a leggere, a approfondire, non sa per esempio che Fontana ha fatto un'ordinanza scellerata in cui ha mandato i pazienti Covid dimessi dagli ospedali a fare la convalescenza nelle case di riposo, e quindi questi pazienti Covid, qualcuno ancora magari non del tutto negativizzato, hanno impestato le case di riposo dove ci stavano i vecchietti, e sono morti come mosche nelle case di riposo. E questa è una decisione presa dalla giunta di Fontana che è costata migliaia di vite in tutta la regione. Questa cosa è incredibile, però sai, questa cosa quanti la sanno? Quante persone la sanno? A questo punto torniamo all'argomento principale, perché siamo qua. Cioè, a questo punto arriva la figura del giornalista o della giornalista che dovrebbe fare quello. E allora, proprio magari anche partendo dall'esempio specifico della vicenda del Covid, come mai il giornalismo non riesce a semplicemente dimostrare la realtà, nemmeno dargli una lettura di parte, perché poi vabbè, siamo in Italia, tutto il resto delle storie. Però lì cioè, sono mancati i giornalisti, le giornaliste che facevano emergere questa cosa e la ricordavano. Io non lo so se è proprio così. Io ho l'impressione che la gran parte della gente non si informi. Cioè, allora, io non lo so. Voi, per esempio, leggete i giornali? No, vero? La carta stampata? Ascolta, non perché sia la vostra colpa. Intendo dire, ma Radio Popolare le cose le ha dette. Ma se uno non ascolta Radio Popolare non le sa. Se uno si informa su Facebook sul Covid, per forza non sa le cose, perché girano di tutto, gira un sacco di cazzate, girano cose vere mescolate a cose inventate, per cui non sai più cosa è vero, cioè è difficile rintracciare le cose come stanno. Però poi ci sono anche, come dire, mass media in malafede, per cui per esempio se uno guarda i telegiornali della RAI, sono asserviti a chi è in quel momento maggioranza in Parlamento, perché le nomine dei direttori dei telegiornali sono nomine politiche. Però anche lì io non lo so quale gente guarda ancora il telegiornale, sinceramente. Io per esempio non lo guardo più, io una volta lo guardavo il telegiornale, ma non lo guardo più. I giornali perdono copie di vendita in maniera vertiginosa. L'online comunque ha sempre fatto numeri piccoli in Italia, non c'è ancora forse del tutto la cultura come per esempio nei paesi anglosassoni. Non lo so, è chiaro che in questo tipo di cose si può fare giornalismo seriamente o in maniera superficiale o in malafede o in buona fede, su questo non c'è dubbio. Però io francamente non so dire se devono essere i giornalisti, cioè non so come spiegare, ho l'impressione che volevo, si posso interrompere, cioè intervenire, è proprio cioè questo che a questa domanda che a questo punto mi sorge, cioè spontanea, dov'è che finisce la responsabilità delle testate giornalistiche, dei giornalisti e delle giornaliste stessi e stesse, e dove inizia la responsabilità invece del singolo lettore o lettrice che vuole tenersi informato, ma ha, cioè secondo me un po' un sentimento che hanno molti e molte è che appunto perché ormai si nota, cioè si sa, si nota in ogni cosa, se apro i social io sono talmente distaccata e disillusa ormai che non mi informo più su determinati canali, su determinate cose, perché sento di non potermi fidare, non so a chi rivolgermi, cioè a che piattaforma rivolgermi, a che singoli rivolgermi, perché cioè ormai è difficile anche mantenere uno spirito critico in quanto cioè cittadina, cioè rispetto a quello che mi succede attorno, perché mi mancano, cioè, siamo bombardati da notizie spesso, appunto, come dicevi anche tu prima, superficiali, ed è difficile rimanere effettivamente informati, informate. Cioè dov'è che hai molto ragione, però ti potrei ribaltare io la domanda da giornalista a lettrice o da giornalista ascoltatrice. Io non lo so, insomma, il problema vero è anche del rapporto con l'informazione in generale, perché ripeto, uno può dare il suo meglio, però dubito che si possa veramente arrivare molto in là a coinvolgere cittadini e cittadine nell'interessarsi, nell'informarsi. È anche un mondo che ha perso, secondo me, anche credibilità. E quindi è molto complicato riallacciare il rapporto il rapporto col pubblico. Come dici tu, si può aprire Facebook e essere, come dire, investiti da una serie di informazioni di cui non sai se fidarti o no, ma allo stesso tempo si può comprare Repubblica in edicola e rendersi conto che, cioè, metà della roba è illeggibile. E poi ci sono delle cose interessanti, buone, fatte seriamente, però nel complesso, a mio parere, quel giornale lì ha perso tantissimo di credibilità negli anni. E come si recupera? Sarebbe un po', come dire, ormai ci vorrebbe una rivoluzione, ci vorrebbero un direttore, una direttrice molto seria, un investimento anche serio di soldi. E anche lì, certo, di soldi. Se anche solo per tutto quello che riguarda il tema degli esteri, della politica estera, se tu non fai viaggiare i tuoi giornalisti, scriveranno scopiazzando i giornali del paese di cui devono scrivere. È complicato. Io da questo punto di vista sono abbastanza pessimista sulla capacità dei giornalisti, ciascuno di per sé, di raggiungere un pubblico a cui fornire un'informazione ben fatta. È sempre più complicato, secondo me, questo rapporto. Io volevo chiedere alla Alice. So che non ho risposto molto, però è proprio qualcosa su cui io stessa mi interrogo senza avere risposte. È una domanda non aperta, apertissima, cioè era... Qua poi finiamo sempre su domande belle complesse, quindi ci piace. Un domandone, sì. Prego Alice, vai, che abbiamo Lorenza per poco tempo ancora, solo 20 minuti, poi deve scappare, perché tra l'altro è bloccata in impegni di radiofonici, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, perché io con gli altri capi redattori a rotazione abbiamo la responsabilità dei giornali radio del fine settimana, e quindi questo è il mio fine settimana e devo stare in contatto abbastanza continuo con la redazione, anche perché questo è l'orario in cui stanno andando in onda il nostro giornale radio, e quindi insomma. L'abbiamo beccata proprio tra il cugino e il martello. Esatto, vabbè. No, io in realtà appunto gli argomenti sono stati più o meno trattati, quelli che di solito voglio sempre chiedere. Non abbiamo troppo menzionato dove sta la radio in tutto questo, cioè la radio proprio come mezzo di informazione. Cioè, quanto è forte Alice, Lorenza, ma la prendi a Radio Popolare subito? Si può fare, non potete comprare sul calciomercato delle giornaliste. Guarda, noi abbiamo questa regola che bisogna entrare facendo uno stage con certi requisiti, però si può, probabilmente se ne può parlare, insomma, sentiamoci e vediamo se in Italia ci sentiamo. Se ci sono le condizioni, esatto, quando torni in Italia, esatto. Comunque, la radio. Esatto, cioè la radio proprio come mezzo, anche cioè, storicamente, come si sta evolvendo, perché appunto anche parlando prima dei podcast, qual è, cioè, anche il rapporto, no, con questo nuovo format dei podcast, che anch'io mi accorgo che sta prendendo tanto piede? Sì, secondo me quello lì è il futuro. Normalmente i dati, io adesso non sono aggiornata, però in questi 20 anni la percentuale di giovani, adesso non so dirti bene l'età, perché poi però diciamo under 25 che ascoltano la radio è andata sempre diminuendo, è proprio qualcosa che interessa sempre meno, però invece i podcast sì, e quello sicuramente è il futuro. I podcast, come dicevo prima, sono parenti della radio. Io per esempio tutte le mattine ho una trasmissione di un'ora e mezzo che poi poco dopo finisce sul sito di Radio Popolare sotto forma di podcast, e quindi la mia trasmissione, chi non l'ascolta in diretta, se la può ascoltare quando vuole sotto forma di podcast. Quindi tutte le nostre trasmissioni, senza nessuna eccezione, diventano dei podcast e sono fruibili poi on demand sul sito o tramite l'app di radio popolare. Cosa diversa, quando si parla di podcast si intendono più quelli che si chiamano i podcast nativi, cioè le cose che nascono come podcast, che non vanno in onda in FM, ma che sono solo appunto disponibili sulle varie piattaforme su cui appunto su cui si mettono i podcast. Questo secondo me fa sì che il lavoro del giornalista radiofonico si sposterà sempre meno da una modalità generalista e sempre verso una proposta più di taglio, perché il podcast nativo sceglie un argomento e approfondisce quell'argomento, mentre invece la radio, ci sono naturalmente le trasmissioni specifiche, però molte volte invece, almeno in radio di informazione come possono essere Radio Popolare, Radio 24, o per certi versi anche una radio come DJ, che secondo me non mi dice molto perché ormai anche Radio DJ è una roba da vecchi, però sono radio in cui bisogna un po' saper parlare di tutto, no? Che sia informazione o che sia cultura, musica, spettacolo o appunto attualità. I podcast ovviamente spingeranno verso una specializzazione, secondo me, i giornalisti, perché insomma, bisogna studiarsi un argomento e realizzare un, come dire, un approfondimento. Ecco, quello secondo me è un po' quello che salverà la radio, non perché appunto, cioè proprio perché tutto quello che va in onda in una radio in FM poi diventa un podcast, e quindi il contatto con il pubblico si può mantenere non solo con l'FM ma anche tramite i podcast. Io questa cosa dei podcast l'avevo scoperta, a parte fatto ascoltandoli, ma perché sono rimasto sorpresissimo di vedere quanta gente ascolta anche i programmi di Radio ZM, che voglio dire non è proprio, ecco, Radio Popolare, diciamo tranquillamente, con abbastanza modestia, e invece 600 ascolti, 1200 ascolti per l'unico programma che ha avuto veramente successo, che era fatto dalle Compagne delle Ribelli, che è l'unico veramente che ha sfondato nel mainstream, però è incredibile, cioè ad ascoltarci in tre, nemmeno mia madre mi ascoltava live, e invece anche le cagate che dicevo io con l'altro socio, la Zona Rossa, ho ascoltato un sacco di volte. Ma sì, perché ti metti le cuffie e vai, cioè se sei in bici, se stai camminando, se qualsiasi cosa, insomma è una modalità oggettivamente eccezionale, comodante. Perché tu quando vuoi ti ascolti una roba, sai che c'hai 20 minuti, ti ascolti una roba da 20 minuti. Allora io invece volevo colpire come al solito diretto e preciso, domani le primarie del PD, chi vince secondo Lorenzo Ghidini e perché soprattutto? Ah guarda, io devo dirti che penso che alla fine vincerà Bonaccini, perché penso che la comunità degli elettori del Partito Democratico è una comunità conservatrice. Elie Schlein porta gente da fuori e fa bene secondo me, perché se quel partito vuole rimanere in vita deve recuperare il rapporto con le persone che non lo votano più. Questa volta insomma secondo me ha senso che le primarie siano aperte anche a chi non è iscritto. C'è molta polemica e vedrete che ci sarà un gran casino se vince Elie Schlein sul fatto che gli iscritti hanno preferito Bonaccini e poi magari invece le primarie aperte faranno vincere Elie Schlein, perché le primarie aperte fanno premio su quelle degli iscritti, quindi chi vince domani si riparte da 0-0, abbiamo visto tutte le percentuali, no? Bonaccini avanti di 20 punti, ecco, domani non vale niente, domani si riparte 0-0, palla al centro. E se Elie Schlein porta molta gente anche all'infuori del Partito Democratico, che io vedo, magari è la mia bolla di Facebook, però tanta gente che col Partito Democratico non ha voluto avere niente a che fare in questi anni, che vede in Elie Schlein la possibilità di un cambiamento, di un partito che, per quanto possa non piacerci, non può che essere il perno di un'alleanza per mandare a casa questa destra, se non ce la vogliamo tenere per 10 anni, cosa che a me francamente mi angoscia molto. Poi ci possiamo anche dire che il Partito Democratico per tante cose non è diverso, se pensiamo alle politiche sull'immigrazione, Minniti, Jobs Act, quindi esatto, e sono assolutamente d'accordo. Però in ogni caso è proprio per questo che secondo me il Partito Democratico con Schlein ha un'occasione di cambiamento, ma considero quella una comunità conservatrice e quindi penso che non coglieranno questa opportunità. Io potrei sottoscrivere tre volte tutto quello che ha detto Lorenza, grazie per avermi detto cosa pensavo. Io l'avevo in maniera molto confusa, hai detto esattamente quello che pensavo. Ce la faranno neanche questa volta, grazie, arrivederci. Infatti, scioglietevi e squagliate. Io che, come dire, secondo me sarebbe una gran cosa se vincesse Schlein. Sto ancora pensando ad ora se andare a votare o no anch'io. Perché comunque il mio pezzettino, se c'è questa occasione, vorrei farlo, proprio per il discorso che vi ho detto, no? Dopodiché non ci credo molto. Si terranno il solito maschio bianco sessantenne che gli sta portando alla morte e saranno sereni così. E forse va bene così, no? Forse va bene così, così se gli va bene a loro, cavolo, succederà qualcos'altro per forza, non si sa. Non so, questo non è detto, perché comunque visto il panorama intorno, non giurerei che poi c'è un po' di morti viventi, quindi esatto. Vabbè. Come diceva Gramsci, il nuovo non può nascere e il vecchio non riesce a morire, siamo bloccati nell'orrore. Bravo. Che bello. Va bene, allora, adesso che andiamo verso la fine, allora io volevo chiederti una cosa. La prima era di... come dirla in maniera positiva, dovresti consigliarci chi sarebbe il prossimo giornalista o la prossima giornalista da disturbare, perché abbiamo capito che è molto più divertente fare così piuttosto che cercare noi contatti di giornalisti. Ci dai adesso se vuoi nome e cognome, se no a microfoni spenti, ci dici chi possiamo disturbare. Ma mi dovete dire un profilo di massima. Qui la capo redattrice Alice, devi dettare tu la linea. Non so. Ma in realtà noi, cioè nel senso, abbiamo sempre intervistato anche persone con background diversi che fanno cose diverse, quindi ti direi, cioè noi parliamo di giornalismo e di politica. Ok. Ma al solito cioè, quindi ci vuole una persona che se ne intenda di politica italiana, giusto? No, non necessariamente. No. Giustissimo. Io sono sempre molto interessata anche alla politica internazionale. Cioè... Quanto è forte Alice, maestro, veramente fantastico. Anche lui. Allora, ragazzi, posso dirvi, il nostro capo redattore esteri è una cannonata, si chiama Shawky Senussi, è un signore ormai, non posso dire un ragazzo. Penso che mi inchinerai al computer se viene Shawky Senussi redazione in trasmissione. Sto zitto, balbetto qualcosa, guarda, glielo posso chiedere. Lui è veramente super, E proprio ti apre una finestra sul mondo ogni volta che parla. Dai, sarebbe meraviglioso. Se è raggiungibile, il mio consiglio è se tu pensi che è raggiungibile, certo. Magari per l'edizione di marzo ci proviamo. Certo che è raggiungibile. Fantastico. Bellissimo. Tra l'altro posso dire, lui è un grandissimo formatore di tutti i nostri stagisti, li prende sotto la sua ala e da questo punto di vista è il migliore di tutti da noi. Secondo me il numero di telefono lo prende Alice, lo sento Alice, io non lo dico, poi non lo so, poi se sei lo sento io, ma secondo me è migliore lo sento Alice. Lo contatto io, molto volentieri. Quando volete. Tanto io poi lo vedo lunedì, posso metterci una buona parola. Fantastico. Ma allora, dato che il tempo si utilizza tutto fino in fondo, io me l'ho segnata anche quest'ultima domanda, che è un po' quella sul futuro, vabbè, vediamo se piace. Tra non una di meno e ultima generazione, qual è il movimento che può cambiare qualcosa in questo momento? O ce ne sono altri che non ho considerato? O non lo so. Secondo Lorenzo Chiedini, dov'è che stanno un po' le speranze sul futuro? Allora, premesso che Ultima Generazione è un movimento che conosco poco, quindi dico una di meno, perché secondo me sta già cambiando da anni il discorso pubblico sulle disparità di genere. Se ragioniamo su Milano, noi sappiamo che da anni l'8 marzo è la manifestazione più partecipata dell'anno, forse insieme al Pride, ok? Più del 25 aprile. No, Beh, ok, d'accordo. Allora facciamo così, però il 25 aprile è una manifestazione istituzionale. Tutto quello che è nazionale va bene, ma anche istituzionale. Tutto quello che è manifestazioni, diciamo, di movimento, non una di meno, è riuscita ad aggregare, tra l'altro, in maniera molto trasversale dal punto di vista dell'età, perché molte manifestazioni nella nostra città sono bazzicate da persone di una certa età, no? I ragazzi magari non ci vanno, mentre le manifestazioni di non una di meno sono tantissime persone e anche tantissime giovani. Le persone, come dire, perché dico che hanno già un po' cambiato il discorso pubblico? Perché anche le persone non militanti, le persone comuni, tra virgolette, adesso conoscono il problema, per esempio, del linguaggio, magari detestano l'uso della schwa e fanno polemica, ma se ne parla ed è un tema. Hanno fatto breccia tra i giovani e le giovani, e il tema adesso è rilevante e tutti devono prima o poi farsi un'opinione su questi temi delle disparità di genere. E quindi il solo fatto che ci sia questo tema così ormai diffuso nel discorso pubblico può cambiare anche le cose, può cambiare anche, insomma, le lotte possono essere molto rafforzate da questa spinta. E comunque in generale, ripeto, secondo me non una di meno è un movimento con una grande efficacia nella sua azione. Fantastico, molto precisa, grazie mille Lorenzo. Grazie. Basta, 19:55, penso che non dobbiamo più disturbarti oltre anche perché il telefono inizierà a vibrare, a emettere strepiti e emozioni. Ho qualche WhatsApp a cui rispondere, ma niente di urgente, okay, per fortuna. Okay. Quindi, Alice, no, se sul filo di lana vuoi chiedere qualcos'altro, se no ci siamo. Sigla e via. Dici tu. Secondo me possiamo chiudere qua per oggi. Grazie mille. Grazie mille davvero. Grazie Lorenzo. A voi. Grazie mille per essere stata con noi, è stato un piacere. E... alla prossima, dai. Prossima. Ho anche appena rimesso la sigla. Grazie mille, ciao Lorenzo. Grazie. Buona serata, ciao ciao. Vai Alice, saluta il pubblico come si fa in radio. Vai. Ciao pubblico. Grande, che stile, che stile. Buona serata a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Grazie per essere stati con noi e state con noi oggi e ci vediamo alla prossima puntata. Che a questo punto potrebbe essere grande puntata. Oh yeah, buonasera a tutti e tutte. Buona serata. Ciao.